Non hai mai provato sgomento per il tuo destino, Eugenia? Mi domandò ieri improvvisamente Napoleone. Quando siamo soli col nostro prato che dorme, qualche volta mi dà del tu, sebbene neppure i fidanzati e neppure gli sposi usino trattarsi col tu. Sgomento per il mio destino? Io scossi il capo. No, non provo affatto sgomento. Noi non possiamo sapere che cosa ci attende, perché dunque dovremmo avere timore di una cosa che non conosciamo. È strano che la maggior parte degli uomini affermi di non conoscere il proprio destino, disse lui. Il suo volto era pallidissimo nel lume di luna. Egli fissava lo spazio lontano con gli occhi spalancati. Io invece sento qual è il mio destino, la mia sorte. E ne siete spaventato? Domandai, stupita. Parve riflettere, poi parlò in fretta e a scatti. No, io so che farò qualche cosa di molto grande. Sono fatto per questo, per far sorgere e governare degli stati. Sono uno di quegli uomini che fanno la storia del mondo. E lo guardai, stupefatta. Non avrei mai creduto che qualcuno potesse pensare e dire cose simili. Improvvisamente scoppiai a ridere. Alla mia risata egli sussultò, il suo volto si contrasse, si volse bruscamente verso di me. Tu ridi? Bisbigliò. Eugenia, tu ridi? Oh! Perdonatemi, vi prego, perdonatemi, dissi, ma è stato soltanto perché, ecco, ho avuto improvvisamente paura della vostra faccia. Era così bianca al chiaro di luna e così strana. Quando ho paura, cerco sempre di ridere. Non ti volevo far paura, Eugenia, disse lui, e la sua voce diventò dolce. Posso capire che tu sia spaventata, che tu abbia avuto paura del mio grande destino. Tacemmo ancora per un poco. A un tratto mi venne un'idea. Del resto anch'io farò della storia universale, Napoleone. Egli mi guardò meravigliato, ma io cercai imperterrita di esprimere il mio pensiero. La storia universale è costituita naturalmente dai destini di tutti gli uomini e le donne, non è vero? Non soltanto coloro che firmano delle sentenze di morte o che sanno esattamente come si mettono in posizione dei cannoni e come si fa spararli fanno la storia del mondo. Io penso che anche gli altri, voglio dire coloro che sono ghigliottinati o coloro contro cui si puntano i cannoni e in genere tutti gli uomini e tutte le donne che vivono e sperano e amano e muoiono fanno la storia del mondo. Egli accennò di sì, lentamente. Esatto, mia piccola Eugenia, assolutamente esatto. Ma io interverrò tra questi milioni e milioni di destini dei quali tu parli. Strano. Certo, è strano che uno veda davanti a sé queste grandi possibilità. No, voglio dire che è strano che voi ve lo auguriate, Napoleone, dissi io. E di colpo egli mi sembrò un estraneo. Ma in quello stesso momento egli sorrise e l'improvviso mutamento del suo volto mi ridiede tutta la confidenza che avevo in lui. Tu avrai fede in me, Eugenia, non è vero? Qualunque cosa possa succedere. La sua faccia era vicinissima alla mia, tanto vicina che io improvvisamente tremai e involontariamente chiusi gli occhi. Sentii la sua bocca risoluta sulle mie labbra. Le mie labbra volevano cedere, ma io le serrai in fretta perché pensai subito che Giulia protesta ogni volta che io le scocco un bacio troppo umido sulla guancia. E volevo baciare anch'io, ma in modo da essergli gradita e da sembrargli bene educata. Ma la sua bocca era così dura e imperiosa e non so come avvenne. Certo, io non lo volevo, ma improvvisamente le mie labbra si arresero. E si dischiusero. La notte, molto dopo che Giulia aveva spento il lume, non riuscivo ancora ad addormentarmi. Allora nel buio risuonò la voce di Giulia. Neppure tu puoi dormire, piccola? No, fa tanto caldo in questa stanza, sospirai. Ti devo confidare una cosa, bisbigliò Giulia, un grande segreto e tu non devi dire niente a nessuno, almeno fino a domani dopo pranzo, me lo giuri? Te lo giuro sulla vita della mamma e sulla mia, è il più grande giuramento che io conosca, dissi tutta agitata. Domani nel pomeriggio Monsieur Giuseppe Bonaparte verrà a parlare alla mamma. La mia delusione fu immensa. A parlare alla mamma? E di che? Giulia si arrabbiò. Santo cielo, come sei sciocca! Verrà a parlare di noi, si capisce, di me e di lui. Vuole? Ah, tu sei ancora così giovane, così bambina. Vuole chiedere la mia mano. Mi rizzai d'un balzo. Giulia, ma allora tu sei fidanzata? Shh, non gridare così. Domani nel pomeriggio mi fidanzerò, se mamma non avrà niente in contrario. Domani nel pomeriggio. Scivolai giù dal letto e corsi da lei. Feci del baccano urtando contro una seggiola. Ai, ai! Avevo battuto con le dita nude dei piedi. Shh, Eugenia, tu svegli tutta la casa! Ma io ero già da lei. In gran fretta mi cacciai sotto le sue coperte calde e le scrollai eccitata alle spalle. Non sapevo come dimostrarle che ero tanto contenta. Sei fidanzata! Continuavo a ripetere. Sei una vera fidanzata! Ti ha già baciata? Non si fanno queste domande, disse Giulia stizzita. Quando ebbe detto ciò, probabilmente pensò che doveva dare un buon esempio alla sua sorellina e aggiunse: Ricordatelo, una ragazza deve lasciarsi baciare soltanto dopo che sua madre ha dato il proprio consenso al fidanzamento. D'altra parte, tu sei ancora troppo giovane per doverti occupare di queste cose. Era così buio che non ci potevamo guardare negli occhi. Io sono persuasa che Giulia non diceva la verità. Si capisce che lui l'aveva baciata. Quei due avevano quasi ogni sera il padiglione del giardino tutto per loro. Altri invece, come per esempio la sua, purtroppo tanto più giovane sorella e un certo generale, erano costretti ad aggirarsi intanto senza alcun riparo intorno alle siepi. Ma a questo noi ci eravamo adattati volentieri perché ci immaginavamo che intanto Giulia e Giuseppe. Naturalmente vi siete baciati, affermai al termine delle mie meditazioni. Giulia stava già addormentandosi. Forse, mormorò ancora. È così difficile tenere ben serrate le labbra, rimuginavo tra me. Poi appoggiai la faccia sulla spalla di Giulia e mi addormentai. Credo di essere un po' brilla. Ho un'ubriacatura piccola piccola, una dolce, cara, piacevole ubriacatura. Giulia si è fidanzata con Giuseppe e mamma ha spedito Stefano in cantina a prendere dello champagne. Lo champagne che papà ha comperato molti anni fa e che aveva serbato per il fidanzamento di Giulia. Loro sono ancora tutti seduti al piano di sotto sulla terrazza e discutono dove potranno abitare Giulia e Giuseppe. Napoleone è appena uscito per andare a informare sua madre di tutto. Mamma ha invitato Madame Letizia Bonaparte e tutti i suoi figli per domani sera, così faremo la conoscenza della nuova famiglia di Giulia. Io spero proprio di piacere a Madame Letizia Bonaparte, perché spero. Oh no, è meglio non scrivere nulla, altrimenti non si avvera. Meglio pregare soltanto e credere fermamente e in segreto. Vorrei che ci dessero da bere più spesso dello champagne. Lo champagne pizzica la lingua ed è dolce al palato. E già dopo il primo bicchiere mi faceva ridere, ridere sempre, senza che ne sapessi il perché. Dopo il terzo bicchiere mamma disse: Nessuno deve più versare da bere alla bambina. E se sapesse che sono già stata baciata. Questa mattina ho dovuto alzarmi per tempo e fino a questo momento non ho avuto modo di restare sola con me stessa. Per questo, non appena Napoleone se n'è andato, sono scappata in camera mia e adesso scrivo nel mio libro. Ma i miei pensieri scappano da tutte le parti come tante formiche, e proprio come le formiche portano ciascuno il suo piccolo carico. Le formiche si affaticano trascinando degli aghi di pino, dei rametti minuscoli o un granellino di sabbia. I miei pensieri reggono dei piccoli sogni del futuro, ma io lascio cadere subito i miei granelli di pensiero perché ho bevuto champagne e non riesco a concentrarmi davvero. Non so proprio come sia andata, ma in questi ultimi giorni avevo completamente dimenticato che il nostro svedese, il signor Persson, doveva partire proprio oggi. Da quando i Bonaparte vengono a farci visita, non ho più trovato molto tempo per lui. Io credo che lui non possa soffrire né Giuseppe né Napoleone. Quando gli ho domandato che cosa ne pensasse dei nostri nuovi amici, mi ha risposto soltanto che per lui è molto difficile capirli, perché parlano tanto e così terribilmente in fretta e per di più con una pronuncia diversa dalla nostra. È evidente che l'accento corso è troppo per lui. Ieri nel pomeriggio mi disse che aveva fatto le sue valigie e che questa mattina avrebbe preso la vettura di posta delle 9. Naturalmente io mi proposi di accompagnarlo, prima di tutto perché quella sua faccia cavallina mi è davvero simpatica e poi perché mi diverto sempre tanto quando vado alla posta di viaggio, perché là si vede sempre della gente nuova e ogni tanto anche delle signore con degli abiti di Parigi. Ma poi naturalmente mi scordai di Persson e dei suoi preparativi di viaggio, perché ero occupata a meditare sul mio primo bacio. Per fortuna questa mattina, appena desta, mi sono ricordata della partenza di Pearson. Mi sono buttata giù dal letto, mi sono infilata la sottana e le due sottogonne, ho indossato un abito qualunque, mi sono pettinata in fretta e furia e sono scappata giù in sala da pranzo. Là ho trovato Pearson che faceva la sua ultima colazione a casa nostra. Mamma e Stefano gli svolazzavano intorno e lo esortavano a mangiare più che poteva. Quel poveretto infatti ha davanti a sé un viaggio terribilmente lungo. Prima deve raggiungere il Reno e poi attraversare la Germania, arrivare a Lubecca e di là per mare in Svezia. Non saprei neanche dire quante volte dovrà cambiare diligenza prima di raggiungere Lubecca. Maria gli aveva preparato un cestino di provviste con due bottiglie di vino e un pollo arrosto, uova sode e ciliegie. Infine Stefano ed io prendemmo in mezzo Monsieur Pearson e ci incamminammo con lui alla volta della posta. Stefano portava una delle valigie e Pearson aveva il suo da fare con un grosso pacco, l'altra valigia e il cestino delle provviste. Io lo pregai che lasciasse portare qualche cosa anche a me ed egli mi porse di malavoglia il pacco dicendomi che conteneva una cosa molto preziosa. «La più bella seta che mi sia accaduto di vedere in tutta la vita», mi confidò. «Seta che il vostro signor padre aveva personalmente comprata e che allora aveva destinata alla regina a Versailles, ma gli avvenimenti hanno impedito che la regina...» «Oh sì, seta veramente regale», disse adesso Stefano. «E durante tutti questi anni non ho offerto questo broccato a nessuno. Papà diceva sempre che era adatto soltanto per un abito di corte». «E così mi sono permesso di comprare questa seta», riprese Pearson volgendosi a me. «Avevo risparmiato gran parte del mio stipendio presso la ditta Clary e sono contento di averlo potuto impiegare in questa compera. È un ricordo», era commosso, «un ricordo del vostro defunto padre e della ditta Clary». Io ammiravo Stefano. Poiché non riusciva a vendere in Francia questo pesante broccato, che è senza dubbio di gran pregio ma adesso assolutamente fuori moda, lo aveva appiccicato a Pearson e ad alto prezzo naturalmente. In quest'affare la ditta Clary ha certo guadagnato bene. «Mi piange il cuore a separarmi da questa stoffa», ha detto Stefano schietto, «ma nel paese di Monsieur Pearson c'è una corte reale e Sua Maestà, la regina di Svezia, avrà, speriamo, bisogno di un nuovo vestito da cerimonia e nominerà Monsieur Pearson fornitore di corte. Non dovete conservare troppo a lungo codesto broccato, la seta si taglia», dichiarai io, figlia per la pelle del negoziante di seterie Clary. «Non questa stoffa», disse Stefano, «vi sono intessuti troppi fili d'oro». Il pacco pesava parecchio. Io me lo tenevo con tutte e due le mani, premuto contro il petto. Sebbene fosse ancora presto, il sole già scottava e i miei capelli si appiccicavano madidi alle tempie quando finalmente col broccato d'oro della ditta Clary arrivai alla posta di viaggio. Eravamo già in ritardo e dovemmo così congedarci senza tante cerimonie. Gli altri viaggiatori avevano già preso posto nella diligenza. Stefano depose ansimando sui piedi di una signora anziana la valigia che aveva portato e Pearson, nello stringere calorosamente la mano a Stefano, per poco non lasciava cadere il cestino delle provviste. Poi si impigliò in una discussione col postiglione che gli collocava i bagagli sul tetto della vettura e gli dichiarò che non intendeva perdere di vista il suo grosso pacco e che lo avrebbe sempre tenuto sulle ginocchia. Il postiglione si oppose e da ultimo il cocchiere si impazientì e gridò «Tutti in carrozza!». Il postiglione si arrampicò accanto a lui a cassetta, diede fiato al corno e Pearson allora salì incespicando nella diligenza. Venne chiuso con un gran colpo lo sportello. Pearson lo riaprì immediatamente. «Li terrò sempre in onore, signorina Eugenia!», gridò. E Stefano domandò alzando le spalle «Ma che cosa intende dire questo matto d'uno svedese?». «I diritti dell'uomo», risposi, e mi meravigliai perché i miei occhi si inumidivano. «Niente altro che il foglio dove sono stampati i diritti dell'uomo». E intanto pensavo che i genitori di Pearson sarebbero stati contenti di rivedere quel volto cavallino e che un uomo scompariva per sempre dalla mia vita. Stefano andò in negozio ed io lo accompagnai. Nel negozio di Seterie Clary io mi sento a casa mia. Papà mi conduceva spesso quando ero ragazzina e ogni volta mi spiegava d'onde venivano le varie pezze di seta. Io so anche distinguere le varie qualità l'una dall'altra, e papà diceva sempre che questo ce l'ho nel sangue, perché sono l'autentica figlia di un negoziante di seterie. Ma io penso che ciò sia soltanto perché sono stata così spesso attenta a quel che facevano lui e Stefano e al modo con cui prendevano tra le dita un pezzo di stoffa, e sembrava che lo sminuzzassero e alla fine, socchiudendo gli occhi, giudicavano se era stoffa che si sgualcisse facilmente, se era roba vecchia o nuova e se c'era rischio che la stoffa si rompesse presto. Anche di prima mattina già c'erano avventori in negozio. Stefano ed io li salutavamo cortesemente, ma io mi accorgevo subito che non erano dei compratori importanti. Erano soltanto delle borghesi che avevano bisogno di un po' di mussola per farsi un fichu nuovo o di taftabo a mercato per una gonna. Le grandi signore dei castelli di campagna, che una volta all'inizio di ciascuna delle stagioni di Versailles venivano a dare grosse commissioni alla nostra ditta, non si vedono più. Alcune sono state ghigliottinate, molte sono fuggite in Inghilterra, ma la maggior parte si sono eclissate, cioè vivono sotto falso nome in qualche paese dove nessuno le conosce. Stefano dice spesso che i negozianti e i fabbricanti sono assai danneggiati per il fatto che la Repubblica non organizza mai feste da ballo o ricevimenti. Di questo ha colpa soprattutto il terribilmente parsimonioso Robespierre. Io mi aggirai un po' per il negozio, aiutai gli avventori a esaminare le varie stoffe e li persuasi a comprare dei nastri di seta di un verde stridente, perché avevo l'impressione che Stefano desiderasse di liberarsi appunto di quella merce. Poi me ne andai a casa pensando come sempre a Napoleone e mi domandavo se lui avrebbe indossato la sua uniforme di gala quando avremmo celebrato il fidanzamento di Giulia. A casa trovai mamma molto agitata. Giulia le aveva detto che Giuseppe sarebbe venuto nel pomeriggio a parlarle e lei non si sentiva all'altezza di tale situazione. Da ultimo, benché facesse molto caldo, andò in città per consigliarsi con Stefano. Quando tornò a casa aveva il mal di capo e si sdraiò sul divano e diede ordine che la si chiamasse subito appena fosse giunto il cittadino Giuseppe Bonaparte. Giulia invece si comportava come un'insensata. Correva su e giù per il salotto e gemeva. Era addirittura verde in faccia. E io sapevo che non si sentiva bene, perché a Giulia, quando è molto agitata, viene sempre il mal di stomaco. Alla fine la condussi con me in giardino e le sedetti accanto nel padiglione. Le api ronzavano intorno alle rose rampicanti. Io cascavo dal sonno ed ero tanto contenta. La vita è così semplice, pensavo, quando si vuole veramente bene a un uomo. Perché allora non si è che di lui? Se mi proibissero di sposare Napoleone, me ne scapperei con lui. Alle 5 pomeridiane comparve un enorme mazzo di fiori dietro il quale si nascondeva Giuseppe. Il mazzo di fiori e Giuseppe furono introdotti da Maria nella stanza di soggiorno, dopodiché la mamma venne avvertita. L'uscio della stanza si schiuse e i due rimasero soli. Schiacciai l'orecchio contro il buco della serratura per afferrare qualche cosa di ciò che stavano dicendo a bassa voce, Giuseppe e mamma, ma non riuscivo a capire una sola parola. 150.000 franchi in oro, dissi a Giulia che s'aggirava intorno a me presso l'uscio. Lei sobbalzò. Che? Che cosa vuoi dire? 150.000 franchi in oro ha lasciato papà per la tua dote e 150.000 per la mia. Non ti ricordi che ce lo lesse l'avvocato quando venne aperto il testamento di papà? Oh, tutto questo non ha nessuna importanza, disse Giulia irritata con un gesto di sdegno. Cavò fuori il fazzoletto e se lo passò sulla fronte. Signore Iddio, com'è buffa una ragazza che sta per diventare fidanzata. Dunque, possiamo congratularci? Disse qualcuno dietro a noi ridendo. Era Napoleone, arrivava in quel punto e si serrò con noi contro l'uscio. Posso, come futuro cognato, prendere parte all'angoscioso tormento dell'attesa? La pazienza di Giulia traboccò. Voi fate quel che volete, ma lasciatemi in pace! Singhiozzò. Dopodiché Napoleone ed io, in punta di piedi, ci avvicinammo al divano e ci sedemmo in silenzio. Io lottavo con me stessa per non prorompere in una risata. Tutta la situazione era così pazzamente buffa. Napoleone mi diede un colpetto nel fianco. Un po' più di contegno, Eugenia, ve ne prego, sussurrò e fece studiatamente la faccia feroce. A un tratto mamma comparve sull'uscio e disse con voce tremante: Vieni, Giulia, ti prego. Giulia si precipitò come una forsennata nella stanza di soggiorno. L'uscio si chiuse alle sue spalle e io buttai le braccia al collo di Napoleone e incominciai a ridere, a ridere. Smettila di baciarmi, gridai poi, perché Napoleone aveva immediatamente approfittato della situazione. Ciononostante, non lo lasciai andare, fino a che non mi venne in mente l'uniforme di gala. Allora mi staccai un poco da lui e lo squadrai con aria di rimprovero. Portava la consueta uniforme grigio-verde, con la schiena tutta lustra, come sempre. Oggi avreste anche potuto indossare la vostra uniforme di gala, egregio signor generale, gli dissi, ma subito mi pentii di quel che avevo detto. La sua faccia, arsa dal sole, divenne tutta rossa. Non ce l'ho, Eugenia, confessò. Finora non ho mai avuto abbastanza denaro per comprarmene una e il governo non ci dà che una tenuta, quest'uniforme che ho indosso. L'uniforme di gala dovremmo comprarcela di tasca nostra e voi sapete. Accennai di sì con fervore. Certo, voi aiutate vostra madre e tutti i vostri fratelli e sorelle. E poi un'altra uniforme sarebbe superflua, non è vero? Ragazzi, ho una grande sorpresa per voi. Mamma stava ritta davanti a noi, rideva e insieme piangeva. Giulia e Giuseppe, le mancò la voce, poi si rianimò. Eugenia, va subito a chiamare Susanna e vedi anche se Stefano è già rincasato. Mi aveva promesso che si sarebbe trovato qui alle 5:30 in punto. Io scesi a precipizio le scale e avvertii l'una e l'altro. E poi bevemmo tutti i champagne. Sul giardino scendeva il crepuscolo, ma Giuseppe e Giulia non pensavano affatto al loro padiglione, parlavano invece della casa che vogliono metter su in uno dei sobborghi della città. Una parte della dote di Giulia verrebbe impiegata per l'acquisto di una bella villa. Napoleone si congedò per recarsi ad informare sua madre e io sono salita in camera mia per scrivere di tutte queste cose. La mia piccola, piacevole ubriacatura è ormai completamente passata. Mi sento soltanto stanca e un pochino anche triste, perché ben presto abiterò sola in questa nostra camera tutta bianca e non potrò più adoperare di nascosto il rossetto di Giulia né leggere di nascosto i suoi romanzi. Ma non voglio essere malinconica, voglio piuttosto pensare a qualche cosa di allegro. Devo scoprire in che giorno cade il compleanno di Napoleone. Forse i miei risparmi basteranno per un uniforme di gala, ma chissà mai dove si potrà comprare un uniforme di gala da generale. Marsiglia a metà di Termidoro, ai primi di agosto, dice mamma. Napoleone è stato arrestato. Da ieri sera vivo come in un brutto sogno. E tutta la città invece è presa da un delirio di gioia. Si balla davanti al municipio. Passa una banda musicale dopo l'altra e dopo 2 anni il sindaco organizza il primo ballo. Robespierre e suo fratello sono stati spodestati il 9 Termidoro dagli altri deputati, poi tratti in arresto e mandati alla ghigliottina il giorno dopo. Tutti coloro che in qualche modo hanno avuto relazione con essi vivono nel timore di essere arrestati. Giuseppe ha già perduto il suo impiego che doveva all'amicizia del fratello minore di Robespierre per Napoleone. Stefano dice che non mi potrà mai perdonare di aver portato Buonaparte in casa nostra. Mamma vuole che giovedì andiamo al ballo del sindaco, ma io non posso ridere e ballare quando non so neppure dove abbiano condotto Napoleone. Fino al 9 Termidoro, anzi, più esattamente fino al 10, Giulia ed io eravamo felici. Giulia lavorava con grande impegno al suo corredo e ricamava alle 100 volte la lettera B sulle federe, sulle tovaglie, sulle lenzuole e sui fazzoletti. Le nozze dovrebbero celebrarsi fra circa 6 settimane. Giuseppe veniva a farci visita tutte le sere e conduceva spesso con sé sua madre e i suoi fratelli. Quando Napoleone non era di ispezione, a qualche fortezza veniva anche lui, in tutte le ore del giorno, e di quando in quando venivano anche i suoi graziosi aiutanti, il tenente Junot e il capitano Marmont. Ma le interminabili discussioni sulla situazione politica non mi interessavano affatto. E solo adesso ho saputo che, poco più di 2 mesi addietro, Robespierre aveva messo in votazione una nuova legge. Esigeva che, d'ora innanzi, anche i deputati potessero essere arrestati per ordine di un membro del Comitato di Salute Pubblica. Dicono che molti deputati non abbiano la coscienza pulita perché si sarebbero arricchiti lasciandosi corrompere. I deputati Tallien e Barras avrebbero fatto milioni. Improvvisamente Robespierre fece arrestare anche la bella marchesa di Fontenay, che già una volta il deputato Tallien aveva liberato dal carcere e che da allora era diventata la sua amante. Perché l'abbia fatta arrestare nessuno riesce a saperlo. Forse lo ha fatto soltanto per indispettire Tallien. Alcuni dicono che sia stato per via della Fontenay e altri invece per la paura che Tallien e Barras avevano di essere arrestati a causa della loro venalità. Il fatto è che essi, d'accordo con un certo Fouché, organizzarono la grande congiura. Dapprima da noi non si voleva neppure credere a tutte queste notizie, ma quando arrivarono i primi comunicati da Parigi, la città parve trasfigurarsi come per incanto. Sventolarono bandiere da tutte le finestre, si chiusero i negozi e ciascuno corse a fare visita a qualche amico. Il sindaco non aspettò neppure la conferma da Parigi e immediatamente rimise in libertà tutti i prigionieri politici. Invece, in grande segretezza, si arrestarono parecchi membri fanatici del club dei Giacobini. Ora la sindachessa sta compilando un elenco di tutti i più noti cittadini di Marsiglia per invitarli a un ballo al municipio. Invece Napoleone e Giuseppe sono venuti, tutti sconvolti, a trovare Stefano e si sono chiusi con lui nella stanza di soggiorno. Stefano era furibondo e disse alla mamma che questi avventurieri corsi finiranno col mandarci tutti quanti in prigione. Napoleone è stato per più di un'ora con me nel nostro padiglione e mi ha detto che dovrà darsi d'attorno per trovarsi un altro mestiere. Non posso credere che si pensi di tenere ancora nell'esercito un ufficiale che ha avuto rapporti con Robespierre, mormorava. Per la prima volta ho notato che prende tabacco. Junot e Marmont sono venuti tutti i giorni in casa nostra per incontrarsi segretamente con Napoleone. Quei due non riescono a capacitarsi che lo si possa senz'altro cancellare dai ruoli degli ufficiali. Quando ho cercato di confortarlo e gli ho ripetuto quel che aveva detto Marmont e Junot, lui ha alzato le spalle con disprezzo. Ah, Junot è un idiota. È molto devoto, ma è un idiota, ha detto. Eppure dite sempre che è il vostro miglior amico. Certo, è fedelissimo. Per me andrebbe incontro alla morte, ma quanto a intelligenza, zero. È un idiota. E Marmont? Marmont. E un'altra cosa, Marmont mi è devoto perché pensa che i miei piani per l'Italia dovranno necessariamente un giorno o l'altro avere buon successo. Necessariamente, mi capisci? E le cose poi sono andate in modo completamente diverso da quello che si immaginava. Ieri sera Napoleone era seduto a tavola con noi per la cena. Improvvisamente udimmo rumore di passi cadenzati. Napoleone scattò in piedi e corse alla finestra perché lui non può veder passare quattro soldati senza accertarsi a quale reggimento appartengano, dove siano diretti e come si chiami il sergente che li comanda. I passi si fermarono davanti alla nostra casa. Udimmo delle voci, poi lo scricchiolio della ghiaia sul sentiero, nel giardino e finalmente bussarono alla porta. Noi eravamo tutti impietriti. Napoleone si era allontanato dalla finestra e guardava l'uscio, immobile. Aveva incrociato le braccia sul petto e la sua faccia era diventata pallidissima. La porta venne spalancata. Maria e un soldato entrarono insieme nella stanza. «Madame Clary», incominciò a dire Maria, «è qui da voi il generale Napoleone Bonaparte?» Il soldato la interruppe. Si capiva che si era imparato bene il nome a memoria perché lo pronunciò con forza e senza balbettare. Napoleone si staccò calmo dal vano della finestra e gli andò incontro. Il soldato batté i tacchi e salutò: Ordine di arresto del cittadino generale Bonaparte. Contemporaneamente porse a Napoleone un foglio. Napoleone si accostò il foglio agli occhi. Io balzai in piedi e dissi: Prendo il lume. Grazie, mia cara, posso leggere benissimo l'ordine, disse Napoleone. Poi lasciò cadere il foglio, osservò attentamente il soldato, gli si avvicinò e gli batté sul bottone sotto il bavero. Anche in una calda sera d'estate l'uniforme di un sergente dell'esercito repubblicano deve essere abbottonata, come prescrive il regolamento. Mentre il militare, confuso, si dava da fare per abbottonarsi l'uniforme, Napoleone si rivolse a Maria. Maria, la mia sciabola è in anticamera, vi prego di volerla cortesemente consegnare al sergente. E inchinandosi verso mamma, scusate il disturbo, cittadina Clary. Gli speroni di Napoleone tintinnarono. Dietro di lui uscì dalla stanza il sergente col suo passo pesante. Noi non ci muovemmo. Di fuori la ghiaia del giardino scricchiolò ancora, poi rimbombarono i passi cadenzati sulla strada e alfine la loro eco si perdette. Solo allora Stefano ruppe il silenzio. Continuiamo a mangiare, non possiamo farci nulla. Il suo cucchiaio faceva rumore nel piatto. All'arrosto mio fratello dichiarò: Che cosa vi avevo detto fin da principio? Un avventuriero che voleva far carriera con l'aiuto della Repubblica. E alla frutta: Giulia, sono pentito di aver dato il mio consenso al tuo fidanzamento con Giuseppe. Dopo cena io sgusciai fuori dalla porta di servizio. Sebbene mia madre aveva già invitato più volte tutta la famiglia Bonaparte, noi non eravamo mai stati invitati da Madame Letizia. Potevo del resto immaginarmi il perché. La famiglia abita nel quartiere più popolare della città, proprio dietro il mercato del pesce, e Madame Bonaparte probabilmente prova vergogna a farci vedere la sua misera casa di profuga. Ma adesso ero io che andavo a trovarla. Dovevo pur comunicare a lei e a Giuseppe ciò che era accaduto e discutere con loro che cosa si potesse fare per venire in aiuto di Napoleone. Non dimenticherò mai quella mia peregrinazione attraverso le buie viuzze dietro il mercato del pesce. Da principio correvo come una disperata. Pensavo di non dover perdere neppure un minuto e andavo. Soltanto quando fui vicina alla piazza del municipio rallentai i miei passi. Avevo i capelli già tutti bagnati di sudore e il cuore mi martellava dolorosamente. Davanti al municipio si ballava e un omaccio, un perticone dalla camicia aperta, mi prese per le spalle e rise, contrariato quando io lo respinsi. Sempre nuove ombre mi sbarravano la via. Sentii delle dita appiccicose sulle mie braccia e udii a un tratto una gaia voce di ragazza: «Guarda, guarda, ma quella è la piccola Clarie!» Era Elisa Bonaparte, la maggiore delle sorelle di Napoleone. Elisa, per la verità, non ha che 17 anni, ma quella sera, tutta imbellettata e agghindata e con certi orecchini complicati, sembrava di molto più vecchia. Si appoggiava, stretta, al braccio di un giovanotto dall'altissimo bavero, che secondo l'ultima moda gli copriva mezza faccia. «Eugenia!» mi gridò lei alle spalle. «Eugenia, non accettereste un buon bicchiere di vino dal mio cavaliere?» Ma io corsi via e mi cacciai per i vicoli angusti e male illuminati che menano al mercato del pesce. Là mi avvolse un'oscurità piena di risa sommesse, di squittii e di gorgoglii. Da tutti gli usci e da tutte le finestre fluivano voci carezzevoli e ingiurie. Nel rigagnolo gemevano gatti innamorati. Al mercato del pesce respirai un po' meglio. Lì c'erano due o tre lampioni e incominciai a sentirmi meno angosciata. Di colpo mi vergognai di questa angoscia e mi vergognai anche della bella Villa Bianca con le siepi di Sambuco e i cespi di rose dove abito. Attraversai il mercato del pesce e domandai dove si trovava la casa Bonaparte. Mi indicarono la buia gola di un vicolo, la terza casa a sinistra. Giuseppe aveva detto una volta che i suoi avevano un alloggio al pian terreno. Trovai una scaletta angusta che menava a un interrato, la discesi incespicando, spinsi un uscio e mi trovai nella cucina di Madame Bonaparte.